CQ, canale 10. Sì, c'ho un pericolo di peggiore. Comunque, guarda, non sentiamo di 8 e mezzo, sta arrivando, 8 e mezzo. La vago, diciamo, 5, ma c'ho un pericolo di peggiore, c'è qualche motore, a fianco a me c'è quello, c'è motore alla piscina, e c'è il robot attaccato, capito? Per quello c'ho il problema. Va benissimo, ho detto 8 e mezzo, quasi 9 per modularti, dai. Va bene, vuoi segnare. Dove sei adesso, eh? Non sei a casa, no? Va bene, Antonio, ottimo, ottimo. Andare, diciamo che il segnale è quasi 8 e mezzo, quasi 9, 8 e mezzo a 9 segnale, ottimo, e ok, dai, va bene, Antonio, ci vediamo dopo, se bisogno chiama, a dopo, ciao. Attenzione sul canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamate, si sintonizza in ascolto, brecco.